Le 2:30 della notte, tra sabato e domenica, non sono esistite. Nessuno è arrivato puntuale a un appuntamento delle 2:30 sabato notte. Nessuno. E questo è molto democratico. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Qualche tempo fa mi è capitato di parlare con un giornalista svedese che faceva il corrispondente in Italia. Lui era innamorato del nostro paese e mi ricordo che mi fece un elenco lunghissimo di tutti i motivi per cui vivere qui era magnifico e di tutti i motivi per cui gli piacevano gli italiani, per cui gli italiani erano persone splendide. Alla fine di questo lunghissimo elogio però concluse con questa frase: peccato per questo problema che avete nei confronti delle regole. Io mi innervosì non poco. Lui allora mi spiegò una teoria che era nata tra tutti i corrispondenti dei giornali stranieri che vivono in Italia. Si chiama la teoria della terrazza. Ne ho già parlato, non so se qui o in altre sedi, però è una teoria che mi diverte molto e suona così. Dunque, per quale motivo in Italia, che è un paese straordinario, ricco di arte, di moda, di cibo, di mandolino e di politica, le cose non sono mai completamente a posto? Per quale motivo le regole non sono mai rispettate fino in fondo? Per via della terrazza. Cioè, loro dicono: mettiamo che uno passi 8 ore in ufficio cercando di risolvere tutti i problemi che gli si creano sul lavoro. Si impegna, ce la mette tutta e quindi chiaramente con tutto quello che ne deriva, stress, fatica. Oppure mettiamo anche che uno cerchi di attenersi a tutte le leggi, a tutte le regole, a rispettarle, quelle che sono imposte dal capo, dalla moglie, dallo Stato, no? Comunque arriva sempre il momento in cui torna a casa e se vivi in una bella città, magari dal clima mite, tenete presente che i corrispondenti di solito vivono a Roma, e ha la possibilità di farsi un bel piatto di spaghetti con un buon bicchiere di vino rosso, chiacchierando amabilmente tra amici sulla sua o sulla loro terrazza. Alla fine, chi se ne frega se intorno le cose stanno andando a rotoli o non hai rispettato qualche regola? Ecco, questa è la teoria della terrazza. Io non credo che questa teoria sia completamente vera. Primo, perché non tutti hanno una terrazza, bene che vada un balcone. Secondo, perché è una generalizzazione, quindi come tutte le generalizzazioni non sono affidabili. Oggi però, in nome della sincerità, in nome del rispetto delle regole, mi piacerebbe che tutti quanti ammettessimo la nostra debolezza nel rispettare alcune di queste regole. Non tutte, alcune anche piccole. Le più minuscole, quelle di famiglia, ad esempio, quelle sul lavoro, quelle che ci si dà tra gli amici, ad esempio, quando si gioca qualcosa, a calcetto, a tennis, quelle, ad esempio, che ci impone il bon ton. Qualsiasi regola che magari ci provate anche, ma proprio non riuscite a rispettarle, di fatto è una debolezza da confessare. Tipo fare la doccia gelida prima della piscina, non riuscite a farla. Aspettare dietro la linea gialla, far scendere prima di salire in metropolitana, non uscire in fuoripista, non fare foto nei musei, non mangiare il cibo che vostra moglie vi ha precluso. Ecco, qualsiasi sia la regola che voi non riuscite a rispettare, io sono qui. 800 24 0024 è il numero per chiamare in diretta, è verde quindi è gratuito. Così ogni tanto mi sembra giusto dirlo, se mai uno dice non c'ho manco voglia di spendere 10 centesimi per parlare con quello, invece no, se avete voglia il numero è gratuito. Oppure 349-238-6666 per mandare gli sms, questo invece non è gratuito, quindi fosse in voi io userei l'800 24. Poi magari sms sembra che non costi, ma non è di questo che stiamo parlando oggi. Stiamo parlando di tutte quelle piccole regole che non riuscite a rispettare. Vi mettete una mano sul cuore e me lo raccontate, come ha fatto Valerio ad esempio: lavarmi le mani dopo aver fatto pipì. Questa cosa tra l'altro è un po' inquietante, perché sul profilo Facebook di Valerio io ho notato delle foto in cui lui è dietro il bancone di un bar. E ho detto tutto. Paola, arrivare puntuale al lavoro. Cioè, nei bagni negli Stati Uniti, cioè in tutti i bagni dei locali, c'è questo cartello che dice i dipendenti devono lavarsi le mani prima di ritornare al lavoro. Valerio, attaccatelo anche tu nel bagno del tuo bar, o anche solo se ogni tanto fai il cameriere. Paola, arrivare puntuale al lavoro è una regola che non riesco a rispettare. Gabriele, stare seduto al mio posto allo stadio è una lotta continua con gli stewards. Fabio, non riesco a rispettare i limiti di velocità. Andrea, non riesco a non usare Facebook al lavoro. Erano le 11 del mattino, quindi era evidentemente in ufficio. Marco, non riesco a non fumare al chiuso, ovviamente non in ambienti pubblici, ma in caso in ufficio, visto che è mio. Vabbè, visto che è tuo, Marco, però se non sei da solo, comunque. Cristina, non aspetto mai che il semaforo si metta in verde. Cristina credo che sia, cioè chiaramente è spagnola, perché si chiama Cristina Muñoz qualcosa. Quindi scrive: non aspetto mai a che il semaforo si metta in verde per attraversare la strada. E questo, quando si è vissuto in Inghilterra, è un problema. Però in Italia ci sono i tastini che funzionano sempre, che tu sei lì e schiacci il tasto e speri che diventi verde. Alessandro, fumare nelle camere d'hotel per non fumatori. Ma perché ci sono ancora delle camere d'hotel per fumatori? Angelo, parlare ad alta voce appena sveglio facendo incavolare mia moglie. Questo mi piace. Che ore sono? Sei di quelli che appena sveglio la mattina. Paolo, pagare il bollo auto entro la scadenza. Ma il bollo auto non è obbligatorio pagarlo. No, aspetta, Bonini, hai ragione. No, certo, è obbligatorio pagarlo. Però non te lo controllano insieme all'assicurazione e al liberatore di circolazione. No, ma sì, ma no, comunque quando ti fermano i vigili, se c'è un vigile all'ascolto, confermerà che controlla l'assicurazione, patente e liberatore automobile. Liliana, arrivare puntuale alla scuola materna per prendere mia figlia è una regola che non riesco a rispettare, più forte di me. Sono la mamma più ritardataria di tutta la materna. E questo, Liliana, te lo dico, creerà dei gravi disagi a tua figlia da grande, sappilo. Che questi sono anni di psicoterapia. 800 24 0024 oppure 349 238 6666. Prima guardavamo che se tu metti su Google, sapete quando inserisci le prime parole ti viene l'elenco di tutti i casi possibili, regole per, l'ordine con cui esce in teoria sono i click maggiori che sono, per cui le ricerche maggiori che sono state fatte. Allora vi dico, al primo posto delle regole per nelle ricerche di Google sta giocare a scacchi. Al secondo, le regole per dimagrire. Le regole per bambini, che non so cosa voglia dire, tipo SOS tata forse. Le regole per una corretta alimentazione, siamo già due sul cibo. Le regole per i bambini, e siamo due sui bambini. Le regole per, questa è la migliore, lavorare in Svizzera. Poi le regole per l'amore, le regole per conquistare un uomo, le regole per costruire una casa. E l'ultimo di queste 10 è le regole per vivere bene. Diciamo, quindi la gente cerca il modo per le regole per giocare a scacchi, per avere a che fare con la famiglia, con i figli e con le donne, e per lavorare in Svizzera, evidentemente. Aspetta, ce n'era un altro messaggio che era arrivato a proposito di tutte le regole non rispettabili. Emilio, che non si riescono a rispettare: non riesco a comprare il biglietto del pullman, è una cosa più forte di me. Aspetta che ti becchino, e poi non tanto per la presa da pagare, ma per la vergogna. Lo farai tutti i giorni. Se avete delle regole che non riuscite a rispettare, il numero è quello. Per sentire le mie, semplicemente state lì. È da sabato che c'è questa regola dell'ora legale. Io però me ne sono accorto solo ieri. Sono anche abbastanza fiero di me. Non so perché, però a me questa storia che tutti spostano l'orologio e quindi cambia l'ora così da un giorno all'altro, non so perché, non mi è mai andata giù. Cioè, mi piace che ci sia più luce nel pomeriggio e che la notte arrivi più tardi, questo è ovvio. È che non mi piace proprio il principio, l'idea in sé, no? Cioè, se semplicemente decidendo che accade una cosa, quella cosa accade, allora potremmo anche fare che da domani, il 17 giugno, ad esempio, si chiama 16 bis perché il 17 porta scarogna, giusto? Certo, ovviamente le convenzioni sono comode perché ci si mette poco a cambiarle. Però c'è qualcosa che non mi torna. È come una sicurezza che scompare. Come se il mondo diventasse fluido, pronto a cambiare forma così, in un attimo. In quel film che si chiama Il dittatore dello Stato libero di Bananas, che è di Woody Allen, quindi circa 40 anni fa, c'è la storia del dittatore di un paese del Centro America che viene sconfitto da una rivoluzione popolare, guidata da un tizio con la barba e gli occhiali. Quel tizio, se lo vedete, vi ricorda qualcuno? Ecco, ogni riferimento non è per niente casuale. Il film fa molto ridere. A un certo punto questo comandante buono diventa un po' troppo protagonista e diventa un po' più uguale degli altri e decide che alcune regole devono cambiare, così, da un giorno all'altro. Decide innanzitutto che dal giorno dopo le persone che hanno meno di 16 anni ne avranno 16, diventeranno maggiorenni sostanzialmente. Poi promulga la legge per cui i cittadini dovranno cambiarsi le mutande tutti i giorni e per poter controllare meglio saranno obbligati a indossarle sopra i pantaloni. La lingua ufficiale diventa lo svedese. Il tale ovviamente verrà fatto fuori a fucilate, solo nel film, però nella realtà lui non è ancora lì. Ecco, questo genere di cambiamenti mi fanno un po' paura, un po' come l'ora legale. Cioè mi fanno pensare che siamo tutti una massa di soggiogati e che le regole le fanno sempre per gli altri. Che è giusto così, che le facciano per gli altri, le facciano gli altri soprattutto. Però mi fa sempre un po' impressione, che ne so, come se da domani nessun bar, ad esempio, potresti servire cappuccini prima delle 5 del pomeriggio. Così, per legge. e per colazione si potessero mangiare solo pomodoro e mozzarella. Ora, io lo so che se venisse fatta una legge così potrebbe anche esserci un motivo economicamente ragionevole, forse anche legato alla nostra salute, che so che il pomodoro e la mozzarella sono prodotti italiani e che incentiveranno l'economia, ad esempio, e in più hanno un effetto sul nostro corpo che è molto più benefico del latte intero, del caffè, del burro, degli zuccheri raffinati. Quindi la nazione ne risparmia e la nostra salute ne guadagna. Eppure mi darebbe fastidio comunque non poter farmi un cappuccino e una brioche alla mattina per via di un decreto governativo. Sì, guardate, lo so che sto esagerando, è che ne faccio una questione di principio. Forse Freud direbbe che mi sono dimenticato l'ora legale inconsciamente apposta, un atto mancato, un mio modo di non assecondare qualcosa che non mi va. Ma il fatto sta che ieri sono venuto in radio come al solito abbastanza presto e siccome non sono uno che sta attento a che ore sono, ho fatto un po' di lavoro di preparazione, poi ho alzato lo sguardo e mi sono tarato semplicemente sugli orologi che sono sparsi in tutto l'ufficio. Che in radio è uno di quei posti in cui essere puntuale è importante, solo che è talmente importante che non devi nemmeno farci conto tu, cioè te lo dicono gli altri, è tutto l'ambiente intorno che te lo dice. Infatti è andato tutto bene. Poi sono tornato nell'oblio della mia assenza di tempo e solo a sera mi sono accorto che sul giornale del giorno prima, quello che avevo comprato ma non letto, c'era quel piccolo grafico che ti avverte che le lancette dell'orologio andavano spostate in avanti di un'ora. Ecco, e lì ho capito che per 2 giorni avevo vissuto tutto un'ora prima. E voglio dire, non era successo niente di grave, e quindi ero tranquillo. When I was young, lying in the grass, I felt so safe, no warming bath of sunlight, of sunlight, the vast open sky could do no harm, like an embrace from mother's arms. Leggo da Wikipedia. Allora, l'ora legale è la convenzione di avanzare di un'ora le lancette degli orologi durante il periodo estivo, in modo da aumentare la luce solare nel tardo pomeriggio a scapito del primo mattino. Ho imparato che questa idea è venuta per primo a Benjamin Franklin e che poi l'hanno iniziata a mettere in pratica in Gran Bretagna durante la guerra per questioni di risparmio energetico. Che tra l'altro mi viene da dire, ma non bastava andare a lavorare prima in estate, no? Tipo che fa luce alle 5. Vabbè, comunque, poi mi sa che tutta sta fatica di risparmiare energia cambiando le lampadine a incandescenza con quelle orribili a risparmio energetico che sono gelide, tristi, non so perché, ma ho la sensazione che non servirà molto. Un po' come cercare di svuotare il mare con il secchiello. Dicevamo anche ieri, no? Questa terra si autodistruggerà e noi saremo solo lo strumento. Ma basta con l'ottimismo, pensiamo invece ai problemi che questa benedetta ora legale deve avere provocato mentre io manco me ne ero accorto. Sabato notte le 2 sono diventate le 3. Per decreto. In un secondo, un'ora è scomparsa. Ma non è che si sia volatilizzata, è solo che ha cambiato nome. Però ci sono stati dei treni che dovevano partire alle 2 e che si sono trovati a partire con un'ora di ritardo, così, senza che nemmeno accorgersene. E poi appuntamenti notturni andati male, che si voleva incontrare alle 2:30, ad esempio. Le 2:30 della notte tra sabato e domenica non sono esistite. Nessuno è arrivato puntuale a un appuntamento, sabato notte alle 2:30. Nessuno. E questo in fondo lo trovo molto democratico. E poi c'è la storia del sonno, no? Perdere un'ora di sonno o guadagnarla, nessuno ci ha mai capito molto. Tra l'altro poi non capisco perché bisogna perderla. Cioè, i bambini che si alzano solo quando sono stanchi di dormire non è che abbiano perso o guadagnato un'ora di sonno solo perché l'orologio della cucina diceva una cosa diversa. I bambini piccoli ci insegnano delle cose, un po' come gli animali. Il gallo, per esempio, non cambierà orario in cui strillare. Io ho letto che tutto ciò ci farà risparmiare 93 milioni di euro. E sono contento e mi immagino quante cose si possono fare con 93 milioni di euro. E se anche non ho capito bene come funziona, ho capito che funziona. E quindi me la faccio andare bene. E l'ora legale soprattutto mi dice che l'estate è arrivata, anche se è solo primavera. Insomma, l'ora legale ha un sacco di lati positivi. Ma l'unico che veramente mi commuove è che la gente continua a parlarne. Che giorni prima e giorni dopo ci saranno tante persone che useranno quelle ore per parlare di quell'ora che si perde o che si guadagna. Lo faranno al punto che il conto non si potrà più tenere. E che però a me qualsiasi cosa faccia parlare la gente mi piace, anche se è una cosa brutta. Perché se la gente smette di parlare è finita. Sarà per questo forse che io amo farlo, amo parlare, raccontare le cose. E forse non ve ne siete accorti, però mi piace anche ascoltare. Mi sembra che non sia mai una perdita di tempo. Allora facciamolo. Voi dite che io chiacchiero già abbastanza, arrivano diversi messaggi, forse è vero. Allora facciamo così. Adesso io sto un po' zitto e metto ufficialmente avanti anche il mio orologio da polso. Così, da adesso, siamo tutti pari. It's so dark, I can't see the light. Well, I think of you. When it's so dark, I can't see the light shining through you. Oh. Oh. Io sono il vostro nuovo presidente. D'ora in avanti tutti i cittadini saranno tenuti a cambiarsi la biancheria ogni 30 minuti. La biancheria sarà portata sugli indumenti. La regola fondamentale che non riesco e penso di non riuscire mai a rispettare è quella di troncare definitivamente le relazioni, quelle passate. Sono un collezionista di mezze storie passate. 349-238-6666 800-24-0024. Ci sono un sacco di regole da rispettare e molti non riescono a farlo e ciascuno c'ha la sua. Ho 13 anni, mi scrive Francesco da Monza, e quando mi scrivono di 13 anni a me fa sempre simpatia. Primo perché non ci credo. Secondo perché se è vero tutte le regole che riguardano la comunicazione moderna saltano. Ho 13 anni, al contrario di quello che dice mia mamma, non riesco a preparare lo zaino di scuola la sera. Ah, ho capito. Allora, Francesco c'ha la regola che deve prepararlo la sera, altrimenti la mattina non è pronto, giusto Francesco? E invece non riesce a farlo. La maggioranza delle regole sono fatte da qualche idiota a seconda di come si sveglia la mattina, quindi non le rispetto. Bene, abbiamo anche dei delinquenti all'ascolto. Non riesco a rispettare i limiti di velocità, Cosimo. E Cosimo non è l'unico. Non riesco a non ascoltare pezzi musicali a tutto volume l'una di notte. I vicini però non si sono mai lamentati. Poi c'è un altro che mi scrive che non riesce a comprare musica, film, software o videogiochi originali. E quindi immagino come li compro. Poi mi spiegano che il bollo dell'auto, se non lo paghi subito, dov'è? Ce l'avevo qua. Ti arriva dopo 2 anni con tutti gli interessi, ma anche se la macchina è stata venduta. 800240024. Andiamo da Sergio da Milano. Pronto Sergio? Ciao Marco, ciao Matteo, scusa. Figurati Sergio, è un piacere. Ogni giorno ce n'è qualcuno che mi chiama Marco, ma evidentemente c'è qualcosa che va in quella direzione. C'hai un Marco nelle vite precedenti. Sì, probabilmente. Sergio, tu cos'è che non riesci a fare? Qual è la regola che non riesci a rispettare? Io non riesco a pagare le multe. Quando me le vedo sul parabrezza, generalmente le strappo. O tento a tenerle almeno un 6 o 7 mesi sul sedile vicino a me, insomma, sul sedile del passeggero. Ma scusami, poi ti arrivano però ste multe dopo a casa? Poi arrivano dopo, ma la multa di per sé la trovo un'ingerenza nella mia vita privata, sia di automobilista che di privato cittadino. Aspetta, scusa un secondo però. Già la parola ingerenza mi piace perché è subito altisonante. Cioè, se tu vai non oltre... adesso sul vocabolario. Se tu vai oltre il limite di velocità o parcheggi in un posto in cui non devi parcheggiare, no, non è un'ingerenza, no? Sei tu che fai un'ingerenza nei confronti. No, diciamo che le multe che prendo in genere sono per sosta vietata, abitando a Milano o per sosta tipo polizia della strada, che adesso non c'è più. Infatti ne prendo molto meno adesso di multe. Ma che mi diano la multa perché io parcheggio dove per 2 ore al giorno, poi pulisco la strada, per pulire 3 metri quelli di strada sporcano almeno mezza giornata della mia vita. Senti, non mi piace. Sergio, però al di là capisco questa tua lotta, ho avuto degli amici che avevano questa lotta privata con i vigili urbani e poi purtroppo, mi spiace dirtelo, ma hanno dovuto pagarle tutte. Dimmi quanto ti arrivano maggiorate queste multe? Se arriva fino alla cartella esattoriale tanto, in effetti. Diciamo che io nei 60 giorni non le pago subito, assolutamente. Questo se poi capito. Le strappo non le pago proprio. Poi quando arrivano dopo 60 giorni ci penso, faccio una cernita, magari un 30% che, le pago. Che lavoro fai, Sergio? Ho una società mia, vendo impianti nel settore industriale. Come va il periodo? In Italia è un disastro, all'estero grazie al cielo bene. Sono appena rientrato da un viaggio in Vietnam che ti ha rigenerato. Mi ha rigenerato. Esatto. Sergio, grazie mille. Ti auguro una buona giornata. Ciao, grazie. Matteo, ciao. Mary mi scrive. Io non riesco a Mary, che in realtà è un uomo, non mi ricordo più, me l'aveva anche scritto, il devo originario. Non riesco a rispettare la regola imposta dalla mia ragazza di non bere le bibite nel frigo perché sono per gli ospiti. La mia nonna. No, non bere, lascia la coca per quando viene qualcuno. Ma ti sembra normale? Ieri ho bevuto due bottigliette di Sprite e le ho sostituite con dell'acqua. Le ho rimesse in frigo. Non vedo l'ora che organizzi la prossima serata con le sue amiche. 80024 0024 349 238 6666. Ci sono un sacco di regole che non riusciamo a rispettare, come Mary ad esempio, ma anche Maria. Dico che non devo mangiare la cioccolata fondente, vabbè, ogni tanto ci ricasco, ma questo è un problema suo. E poi Jerry credo che sia un calciatore, forse ci avevamo già anche parlato, chi dice il fuorigioco, non riesco proprio a rispettarlo, sono sempre sul filo. Guarda Jerry, siete in due, siete tu e Filippo Inzaghi. Io sono qui. La foto di oggi è veramente bella. È un tipico scorcio di paesaggio italiano, di paesaggio di riviera italiano, perché c'è sulla destra un cartello di stop rosso, un pino marittimo che quindi è proprio mediterraneo puro, due pali della luce e in fondo c'è una striscia di sabbia. Al centro della foto però, neanche al centro, proprio sulla sinistra, è proprio bravo quello che ha scattato questa foto perché c'è grandissimo equilibrio, c'è una signora in bicicletta con un cappotto rosso e una sciarpona viola. Se la si guarda bene, effettivamente ci si potrebbe accorgere da un piccolo dettaglio che la signora non sta semplicemente andando in bicicletta, ma sta andando in bicicletta controvento. Giovanni Fregonese, 29 anni. Non serviva fermarsi a quello stop, ma ho preferito attendere e lasciar passare l'anziana signora in bici. A gran fatica pedalava contro la sabbia alzata dal vento forte, ma la sua meta era ancora molto lontana. Io sono qui. Andate a vedere la foto sul sito di radio24.it, alla pagina Io sono qui. Dicevo, il dettaglio è chiaramente questa nuvola di sabbia che si vede alle spalle della signora. La cosa divertente di questa foto è che Giovanni me ne aveva postate due sul profilo Facebook, che è Matteo Caccia, Io sono qui. Questa è una scattata evidentemente qualche secondo dopo, in cui la signora era un pochettino più avanti sulla sua strada. E sulla seconda Giovanni aveva scritto: credimi, sta veramente facendo fatica. Magari le ritroviamo e le carichiamo direttamente sul profilo Facebook. Altre regole che non si riescono a rispettare. Non riesco a pagare il bollo delle autostrade svizzere, allora lo compro e poi con un trucco lo presto o lo uso sulle mie altre macchine. A proposito di regole svizzere, ciao. Cioè, un mio amico usava la regola del Domopak, forse non si può dire, cioè che non la metteva al Domopak e rimaneva attaccato. Vabbè, io invece non pago il canone e poi a fine anno lo pago dopo i solleciti. E poi Enzino da Trecate, mi piace quando arriva un novarese e entra a gamba tesa su tutti. Le regole da rispettare sono la linea di confine tra l'uomo e il resto dell'universo, un lusso di libertà che non potremmo mai assaporare. Ragazzi, Enzino, ti chiami anche Enzino e sei di Trecate, però la sai veramente lunga. Andiamo a Verona da uno che si firma pirata perché non vuole dire il nome. Pronto? Pronto, Matteo. Ciao, come stai? Ho un gran piacere, veramente un piacere sentirti. Beh, anche mio. No, non pensavo che quella volta che dovevo sentirti per forza dovevo stare anonimo, che è proprio incredibile. Beh, hai deciso tu, dimmi perché vuoi stare anonimo, perché... Ma perché non si può, dai? Anche perché, guarda, ti giuro, non è una questione di soldi, non è una questione di niente, sì. Ma non riesco. Io non riesco a comprare musica, film, software, video. Non ci riesco. Di che cosa fai allora, già che ci siamo, proprio rendiamola... Allora, guarda, allora, visto che sono anonimo posso anche dirlo, dai. Vai. I peer-to-peer sono diffusissimi. Tutti sanno come si fa a scaricare qualcosa ormai. Ok, questo chiaramente non è uno spot per lo scaricamento illegale, no, semplicemente una tua abitudine, giusto? Non bisogna. No, non bisogna. Okay. Guarda, ti assicuro che a volte, giuro, questo lo dovevo comprare perché meritava e dovevo pagare. Senti, dimmi l'ultima cosa che hai scaricato. Dei software per il mio Mac. Va bene, grazie mille. Però ciao. Anche quelli in effetti meriterebbero di essere comprati. Certo. E mi piace perché tutto quello che scarica dice però meriterebbe. Ciao, grazie, vabbè, buona giornata. Grazie a te, ciao. Ciao. Andiamo a Roma da Marco. Pronto Marco? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie. Tu è più forte di te, non riesci a non scattare le foto nei musei. No, ma non è una questione di andare contro le regole per forza. No, tra certo, mica di quello si parla semplicemente di una cosa irrefrenabile. No, perché guarda, tra l'altro, cioè, a me personalmente danno pure fastidio quelli che stanno là due ore, ti occupa, ti danno, non ti fanno vedere il quadro, l'opera, però cioè, se passi velocemente fai una foto, ma a me delle opere non mi interessa più di tanto, cioè ci vado per quello per vederle, però mi interessano le persone che frequentano i musei, perché trovi degli aspetti sociali. Ma quindi scusami, tu scatti le foto ai quadri agli avventori dei musei? No, scatto le foto agli avventori dei musei mentre guardano i quadri. Okay. E tutto ciò mi tocca farlo in una maniera... In maniera di nascosto. Che lavoro fai, Marco? Perdonami, perché queste patologie di solito hanno a che fare con qualcosa di malsano, immagino. Oddio, malsano. Lavoro per una società di servizi che appunto svolge servizi per la pubblica amministrazione, insomma. Che è molto a che fare con il signore di prima, col signore di prima che aveva problemi nel pagare le multe. Va bene, Marco, ti ringrazio. Ciao, buona giornata. Ciao, andiamo da Mario da Venezia, perché questa perché questa mi diverte un po' come il mio amico svedese. Pronto, Mario? Ciao Matteo, ciao Mario. Senti, tu hai un amico tedesco, giusto? Io ho lavorato a lungo con aziende tedesche, ho vari amici in Germania. Sì. Ma c'ho questo amico il quale un giorno mi ha detto: ascolta Mario, io sarò stupido, ma spiegami bene che cosa vuol dire severamente vietato. E tu gliel'hai spiegato? Gli ho spiegato, da loro se è vietato non si fa, se no è permesso. Da noi vietato vuol dire è una sfida. Si potrebbe anche fare se sei abile, certo, e riesci a evitare la sanzione. Se veramente, occhio, perché là diventa pericoloso. Sì, insomma, è un po'... Vabbè, poi qua, figurati, i luoghi comuni sull'italianità verrebbero fuori e non li facciamo nemmeno. Però mi ricordo un pochettino la differenza tra insufficiente e gravemente insufficiente. Che sì, era una esattamente. Cosa... Ma lui si chiedeva, ma io l'ho visto questo cartello esposto, per esempio, nei parchi. Ho esposto, e che cosa vuol dire sta roba qua? Per me è incomprensibile. Mario, ti ringrazio, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Prima l'ho chiamato, ho detto se ha 13 anni ed è veramente lui, mi piacerebbe sentirlo. E Francesco da Monza ha 13 anni ed è veramente lui. Pronto, Francesco? Pronto, Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene. Senti, la prima domanda che devo farti non è perché non riesci a preparare lo zaino la mattina, sì, sì. Anzi, scusami, la sera, ma è perché ascolti Radio 24? Beh, è partito tutto perché mia mamma, quando mi veniva a prendere a scuola, uscivo sempre alle 4 e lei mi veniva a prendere, c'era già Radio 24 su e io quindi ti ascoltavo. Poi mi sono appassionato e mi è piaciuto. Infatti a volte quando esco prima, magari quando faccio i compiti, metto la radio e ti ascolto. Senti, ma quindi tu ascolti solo Io sono qui o poi ascolti anche, che so, Barisoni, Cruciani, Giannino, Milan? Beh, no, devo dire che ascolto, per lo più ascolto solo te, perché poi magari mi viene anche costretto a sentire gli altri dai miei genitori, magari mio padre in macchina che ascolta. Senti, ma e tu che classe fai, Francesco? Io la terza media. La terza media. Tu hai il coraggio di dire che ascolti Radio 24 ai tuoi compagni che ascoltano 105 oppure... Ma sì, cioè non mi faccio nessun problema a dirlo, perché tanto ognuno ha i suoi gusti. Grande. E... Cosa stai studiando, Francesco, oggi? Cosa stai facendo? Prima non potevo rispondere perché ero dal dentista, ma adesso ho finito scuola e tornerò a casa e dovrò fare i compiti. Che cos'hai domani? Che cos'hai per domani? Domani vado a fare grammatica e matematica. Ma a che punto siamo con la grammatica in terza media? E in questo periodo noi stiamo facendo analisi del periodo. Analisi del periodo? Cioè, che non è analisi logica? Esatto, sono due cose differenti, però... Non chiedermi la differenza perché sono... Figurati, mi ci sono incistato io nella differenza tra analisi logica e analisi del periodo. Ah, ma no, certo, l'analisi del periodo è la principale subordinata... Ecco. No, io lo chiedevo a te, Francesco, a dire la verità. Cioè, sì, l'abbiamo appena fatta. Ah, ok, devi ripassarla. Esatto. Senti, Francesco, che ne dici se ogni tanto noi ci sentiamo, Sì, ti chiamiamo e facciamo quattro chiacchiere. Va bene, però magari do il mio numero, perché questo non è... No, ma non darmelo adesso, sì, poi appunto, ci sentiamo dopo. Ma perché tu hai un cellulare, ovviamente. Sì, ormai a 13 anni ce l'hanno quasi tutti. Senti, scusami, tra l'altro alla fine non ho mai detto la regola. La regola è preparare lo zaino la sera prima e tu non ce la fai. Esatto, io non so perché forse ho finito di fare i compiti e proprio non voglio ancora di toccare ancora dei libri. Certo, è la regola del ci pensiamo domani. E, Esatto. Infatti la mattina mi sveglio magari anche 5 minuti prima per fare lo zaino. Francesco, ti ringrazio molto e ci sentiamo presto. Va bene. Buono studio. Grazie. Ciao, grazie. Va bene, grazie. Ciao, ciao, ciao. Buono, 65 euro qua. Sua moglie è di fianco a lei? Benissimo. Da quant'è che non le faceva un regalo, signora? Fa così con la mano. Ne è passata di te. Di dove siete voi? Di Riccione. E siete venuti apposta per i radio incontri? Cosa vuol dire? Per fare un fine settimana e per portare a casa un anello da 65 euro e 1, 65 euro e 2. Succede ogni tanto qualcosa di strano che nemmeno chi fa la radio si aspetta. Succede ogni tanto che un programma radiofonico, anche abbastanza semplice e per certi versi banale come questo, riesca a salvare una vita di coppia. Questa cosa è cominciata l'anno scorso avendo tutto, è proseguita poi in quella serata che avete sentito, che è stata la diretta dei radio incontri di Riva del Garda, in cui si è concluso quel concorso in cui le persone avevano scritto dei racconti e quegli oggetti di cui avevano scritto venivano venduti. In quel caso questa coppia di Ferrara, di Riccione aveva comprato un anello che era venduto dalla ragazza che poi vinse il concorso, ma fecero molto di più, perché il papà del marito della coppia, papà di una famiglia, aveva deciso di comprare il mio computer, il computer che avevo venduto nel programma, e poi faceva una cosa molto particolare. Non so che cosa sia, non so se è a causa della televisione che non prende mai bene il segnale del digitale terrestre o se sia proprio una fissa, ma mio padre persevera nella sua attività di portarti a cena con il suo portatile anche quest'anno. Ti scrivo ora perché oggi ho scoperto per la prima volta l'accordo appuntamento che si danno lui e mia madre ogni pomeriggio quando inizia la tua trasmissione. La scena è questa: mio babbo dal lavoro e mia madre quatta quatta in cucina si sincronizzano e ascoltano il programma in simultanea. Alla sera poi, perché che divertimento ci sarebbe se non lo facessero, si raccontano la puntata, ovviamente riascoltandola, e la commentano. Ammetto che pensavo fosse una fase di transizione quella legata ai tuoi programmi, e invece no, pare che gli piaccia proprio la tua voce. Io sono felice di sapere che tu gli fai indirettamente così tanta compagnia e che ora hanno anche trovato un modo carino per condividere questo piccolo momento di quotidianità. E così, ecco, un grazie anche da parte mia, che in quanto soggetto esterno alla storia, assisto divertita a tutta la scena. Chiara. Grazie a Chiara, che è la figlia che mi ha scritto questo messaggio, ma anche al babbo e alla mamma. Grazie a Stefano D'Andrea, Roberto Scaltritti, a Viola Bottoni e Tiziano Bonini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi? Dove siete?